una pianura di libri è un progetto che è iniziato 3 anni fa, questa è la 3ª edizione, che si dava come obiettivo di raccogliere un po' di case editrici affini al nostro scopo e alla nostra cultura politica per socializzare i saperi, per citare Primo Moroni, e coinvolgere le persone del territorio, appassionate di libri, autori, case editrici, e discutere con loro dei temi che pubblicano. Quest'anno è un po' diverso dagli anni scorsi, nel senso che il progetto iniziale era proprio quello di invitare diverse case editrici. Negli anni scorsi questo è un po' venuto meno, quest'anno abbiamo almeno 15 di case editrici presenti, alcune con i loro autori. Ci saranno 7 presentazioni di libri, in collaborazione con Falling Book. Le presentazioni saranno gestite dalle ragazze di Falling Book. Avremo anche la domenica mattina, che gli altri anni non avevamo fatto, con un paio di libri per i ragazzi, pubblicati da Mom Edizione, che scrive spesso libri per i ragazzi, ma non solo. E ci sarà un evento particolare a cui teniamo molto, che è, visto che è l'anniversario, 25 anni dalla scomparsa di Primo Moroni e dalla nascita dell'associazione, ci saranno due ospiti speciali come Maisa Moroni, la figlia di Primo, e Marco Filopat di Agenzia X, che è stato amico e collaboratore di Primo. Quindi ci sarà questo evento alle 18:30 sabato, a cui teniamo molto, e sarà una cosa anche in più, oltre alle varie presentazioni che cominceranno sabato pomeriggio alle 16:30 e la domenica mattina dalle 10:30 fino al pomeriggio alle 5:30. La prima serata sarà chiusa da una cena popolare e la seconda da un aperitivo. Ci sarà la cena popolare dopo la tavola rotonda insieme a Maise e Marco, e ci sarà anche un gruppo musicale che suona, sono Anch'io Sì, molto bravi, sono già stati ospiti da noi il 24 aprile, quindi ci sarà anche un momento di socialità, quindi mangiare, bere e ballare, oltre alla possibilità di visitare tutti gli stand con i libri delle case editrici presenti. Ci sarà la possibilità anche di pranzare domenica, avremo anche il pranzo, anche questa è una novità, dopo le presentazioni del mattino, e la sera concluderemo con l'aperitivo, il reading fatto da Cecilia Lavatore, tratto dal suo libro Mia sorella figlia unica, che sarà accompagnata anche lei da un chitarrista, quindi sarà un reading anche musicale che chiuderà questa 3ª edizione. Dove trovare il programma completo delle presentazioni? Beh, allora sì, in internet ci sono tutte i vari appuntamenti, basta digitare una pianura di libri, o sul sito della Casa del Popolo di Ponticelli c'è il programma completo, trova lì, oppure nei volantini che abbiamo distribuito, se no comunque sul sito c'è il programma dettagliato con gli orari di tutte e due le giornate e le case editrici presenti.